Estoy con el mundo en el lugar.

ma già che le mie cuode con la freccia di una pezzo e se pure ballavo. Annate iene ci man guai e l'uccio ti allede I'm gonna make it.